Bene, abbiamo adesso l'ultima relazione che è scritta a quattro mani da me e dal professor Antiseri e che verte appunto, professor Antiseri, notissimo anche per una sua fortunatissima storia della filosofia che vedo adesso tradotta anche in lingua russa e quindi catechizzerà la Russia, le intere Russie sulla storia della filosofia, che non è poco, sul tema appunto la filosofia kantiana e la cultura cattolica. Noi abbiamo ascoltato l'ultima relazione prima dell'interruzione, la professoressa De Pascale che ha parlato appunto sulla recezione della filosofia kantiana della religione nei primi 50 anni in Italia e diceva che questa recezione è stata a dosi omeopatiche, minoritaria, schiacciata, diceva, da un lato dall'interesse per la dimensione gnoseologica, dall'altro per l'interesse della metafisica e, come emergerà da questa relazione comune, probabilmente anche, aggiungerei io, dai rapporti non facili tra Kant e la cultura cattolica. Cedo la parola al professore Antiseri. Grazie. Massimo, io leggo questa relazione che lo stesso, ma discutendo più volte a Roma appunto con Baldini, con il quale mi trovo molto d'accordo appunto, ci sono d'accordo soprattutto sulle conclusioni e sulle domande che poi porrò agli amici metafisici, ex colleghi padovani che stanno già in agguato per scagliare frecce velenose nei miei confronti, e io accetto molto volentieri, come sapete, che poi... Allora dicevo... Questa mattina io mi sono sentito molto confortato quando il professor Ischke, intervenendo sulla relazione di Neufeld, ha detto in sostanza che Neufeld aveva dimenticato in qualche modo, aveva appunto dimenticato tutto un episodio appunto di un approccio, di un accordo proprio tra la filosofia kantiana e alcuni pensatori cattolici. E poi Ischke ha aggiunto: il problema non è solo un fatto storico, pone anche dei problemi teoretici, cioè è un problema che non è morto appunto con Royce o con Muscelli o con Weber o con gli altri. Allora, quello che faremo, che farò io appunto qui insieme a Baldini, sarà dare alcune conoscenze su un episodio storico, su episodi storici del rapporto tra la filosofia di Kant e alcuni preti, vale bene, sacerdoti cattolici, nella Germania tra il 1780 e 1810 circa, diciamo così, e poi ecco, su questo episodio io porrò delle domande, non in modo provocatorio, ma semplicemente perché credo che valga la pena riproporre quei problemi che si erano appunto posti questi sacerdoti appunto cattolici kantiani. Bene, come ricordava Neufeld questa mattina, l'11 giugno del 1827, sotto il pontificato del Leone XII, la critica della ragion pura viene messa all'indice. Del 4 agosto del 79, l'Eterni Patris del Leone XIII, encirica in cui i vescovi vengono esortati, cito, a rimettere in uso la sacra dottrina di San Tommaso. 20 anni più tardi, nel 1899, lo stesso Leone XIII promulga l'epistola enciclica ad Episcopo Sanctiverum in Gallis. Qui il Papa esprime il suo profondo dolore, tra virgolette, dinanzi a quei cattolici che si sono messi a rimorchio della filosofia di Kant, una filosofia che sacrifica ad un radicale, cito ancora il suo relativismo, tutte le certezze della tradizione metafisica. L'8 settembre 1907, Pio XII con la Pascendi mette al bando il modernismo attaccandolo alla radice, e questa radice consisterebbe esattamente nel delirio della filosofia kantiana. L'influente libro di Guido Mattiussi, Il Vedono Kantiano, esce in prima edizione a Monza, col titolo Il Vedono Kantiano, nel 1907. E poi nel 13, scrive Mattiussi: tutto il sistema di Kant è maligno e falso. La sua dottrina è veleno, del quale basta una goccia per dar la morte alla scienza e all'intelletto. Stando così le cose, ecco il grido di battaglia del Mattiussi. Via da noi codesta chimera di filosofia, via codesto fantasma di critica rigorosa, onde soffocata la ragione e resa impossibile la fede. Ripeto, onde soffocata la ragione e resa impossibile la fede. Anche per la questione Gemelli, la signora ricordava appunto Gemelli, è vero, Gemelli attende il giudizio di Mattiussi. Ma cosa fa Gemelli, insomma, nei suoi due interventi su Kant, nel 24? Zambelli dice la filosofia vera ed eterna è quella di San Tommaso, però Kant non è così sciocco, per cui qualche pezzo, qualche espressione c'è che può essere assimilato. Non è che si valuta Kant come un interlocutore, perché Kant dice, no, è nel falso Kant, però diciamo così, ci sono dei pezzi, ripeto, dice padre Gemelli, che possono essere assimilati da questa vera filosofia. Bene, Gemelli scrive che in particolar modo la scolastica e in particolar modo il Tommaso è la vera filosofia, è costruzione razionale assoluta e immutabile. Tuttavia, dicevo, dove esaminato da Matrussi, Gemelli denuncia nei confronti di Kant un programma di rivalutazione ad opera della simulazione di spunti, barlumi e pezzi di verità, per esempio l'impulso verso la trascendenza, che è possibile rinvenire in Kant. Qualche anno fa il Santo Padre Giovanni Paolo II, nella terna decennale del Veni Patris, ha ancora ribadito che, cito, la filosofia di San Tommaso merita attento studio e accettazione convinta da parte della gioventù dei nostri tempi. Dunque, nella battaglia tra due mondi, come va a dire Rudolf Peuken nel 1901, nella battaglia tra Tommaso e Kant, tra due modi di concepire la ragione e la filosofia, la Chiesa Cattolica ha scelto San Tommaso, e oggi appunto è la sua festa, ha scelto San Tommaso, rigettando con documenti duri e talvolta impietosi tutti i tentativi apologetici di quegli intellettuali cattolici che, su base kantiana, avevano cercato di riformulare il rapporto tra ragione e fede. Ecco dunque una domanda che non può essere evitata. Si è trattato di una buona scelta? Fu una scelta razionale o soltanto politica, come ha scritto Tibor? E poi, dopo Kant, è davvero proponibile un valido uso trascendente di categorie come quella di causalità? Oppure questo uso è solo un abuso? In breve, non dovremmo forse ammettere che erano un giusto quei pensatori cattolici che, come Martin Rawls, si adoperarono per la costruzione di un'apologetica cattolica su base kantiana. Difatti, nel 1789, 15 anni prima della morte di Kant, esce a Würzburg un libro, ed è questo, un libro a firma del padre benedettino Martin Rawls, professore di filosofia presso quell'università. Il volume che lo stesso Kant teneva a caro nella sua biblioteca privata è così intitolato Solman auf katholische Universitäten Kants Philosophie erklären. Dunque, si deve insegnare la filosofia di Kant nelle università cattoliche? Ebbene, la risposta di Rawls, decisa e convinta, e secondo me sostanzialmente ancora convincente, a questa sua prima domanda è la seguente. Scrive Rawls: chi comprende la filosofia di Kant non si chiede più se questa debba venire insegnata anche nelle università cattoliche. E dunque, coloro che si pongono ancora la domanda sicuramente non comprendono la filosofia di Kant. Ai nostri giorni, questa figura intellettuale di Martin Rawls è poco conosciuta. Io sono stato molto felice che oggi, appunto, sia noi, sia Hinske, appunto, soprattutto Hinske, l'abbiamo ricordato. Perché questo intellettuale tedesco era un giovane che si laureò in medicina e a Würzburg. E appena fatto medico, appena laureato di medicina, insieme al suo maestro Rudolf Meinhof Wilhelm, che è uno dei fondatori della scuola medica di Würzburg, andava a visitare appunto con il suo maestro il convento, il padre, il convento benedettino di Santo Stefano di Würzburg. E proprio in queste occasioni ebbe modo di parlare con questi padri benedettini e si fece benedettino. Dovendo studiare teologia e filosofia, ecco, si incontrò con i libri di Kant che erano usciti appena in quegli anni o stavano uscendo in quegli anni. Bene, diventa professore appunto all'università di Würzburg e nell'autunno del 1792 Rawls, accompagnato da un altro benedettino di Würzburg, Konrad Stang, si mise in viaggio alla volta di Königsberg per far visita a Kant. Durante il viaggio di ritorno, egli si incontrò a Vienna con Reinhold, il quale in una lettera del 29 ottobre 92 a Baden si scrive: non puoi di certo avere più gioia della mia riguardo alle notizie che la settimana scorsa mi ha portato il professor Rawls di Würzburg, il quale mi fece visita nel suo ritorno dal suo pellegrinaggio a Königsberg. Da lui ho saputo che la metafisica dei costumi è pronta per la stampa e che a Pasqua sarà pubblicata e che il nostro patriarca sta davvero lavorando ad un'opera sull'armonia tra il Vangelo e la filosofia morale. Il Reus è un monaco benedettino del convento di Santo Stefano di Würzburg, ma al contempo professore di filosofia teoretica e pratica in quella università e tiene le sue lezioni seguendo in tutto Kant. È rimasto a Königsberg 8 giorni e fu 6 volte a pranzo da Kant. Scrive Lachmann nel suo immagine del Kant descritto in detta di un amico che a Kant non fu indifferente il fatto che il principe vescovo di Würzburg pagasse il professor Reus a professor Reus il viaggio a Königsberg affinché potesse intrattenersi con lui di persona su argomenti alcuni della sua filosofia. Mettendo le sue forze e la sua attività per la diffusione della filosofia di Kant nella Germania cattolica, Reus cadde malato all'inizio del 98, si aggravò nel luglio dello stesso anno e morì il 26 settembre del 1698 tra le 6 e le 7 del mattino. Ed ecco come Georg Scheffe, che ne fu testimone oculare, descrive la morte di Reus. Prima delle 6 del 26 settembre, egli avvertì che la morte si stava velocemente avvicinando. «Chiami anche gli altri fratelli», disse Reus al sacerdote che lo assisteva, afferrando rigidamente la mano affinché vedano come io voglio. Vennero subito il padre priore e i giovani chierici. Il padre priore, preso ad assisterlo, pregava insieme a lui. Reus, con voce chiara, ripeté ogni preghiera, alla fine un ardente basso crocifisso e le parole «Ora pregate», con cui passò crocifisso nelle mani di un padre che gli stava vicino. Furono sorvegno di lodo, dice Scheffe, congelo da questo mondo. Così morì Martin Reus, la benedizione, dice Scheffe, dei suoi confratelli accompagnerà per sempre il suo ricordo. Io ho voluto mettere questa nota biografica anche perché si è spesso detto che se uno è kantiano non solo non può essere cattolico, ma è ateo, agnostico, contro la Chiesa, l'abbiamo visto, e questo. E quindi vedere appunto che come muore questo prete cattolico kantiano penso che sia una cosa abbastanza istruttiva. E comunque falsifica appunto molte idee sui kantiani cattolici. Bene, la filosofia di Kant, dice Reus, appare a molti come un insieme di geroglifici. Però dice Reus, per esempio, sempre in questo libro, dove analizza appunto le opere e le prime opere di Kant, fino ad arrivare appunto alla ragion pura, basta appunto, dice Reus, leggere queste prime opere e si capirà appunto che non sono affatto geroglifici. In ogni caso, la fede razionale, spiega Reus, è una fede necessaria, se la ragione ha bisogno, quando espone la ragione pura e la ragione pratica, è una fede necessaria se la ragione ha bisogno per uno scopo necessario di una proposizione che nessun uomo può conoscere e che nonostante ciò essa è costretta a ritenere per vera. Scrive Reus al seguito di Kant, io ho in me un assoluto scopo necessario, io riconosco la moralità come qualcosa di necessario nella mia natura e senza il quale tutta la mia dignità e tutto il mio valore sprofonderebbero, poiché senza l'osservanza delle leggi morali non solo non si dà nessuna felicità umana, ma senza di essa l'uomo non sarà mai felice e nemmeno degno del diritto che possiede la ragione. La moralità, dice Reus, è un dato che non può venire negato, ma per il conseguimento ci è riuscito di questo mezzo, di questo scopo necessario, che io e me debbono anche darmi i mezzi necessari. Sempre. Ora però l'uomo non può escogitare il raggiungimento di questo fine in nessun altro modo che postulando che questo stato del mondo sensibile si risolverà in modo per lui ovviamente sconosciuto in un altro stato in cui le sue richieste razionali saranno soddisfatte a sufficienza. Ma tale risultato, dice Reus, egli non può aspettarselo se non da un essere che sia il fondamento non solo di ogni ragione ma contenga anche tutte le altre cose. Io sono pertanto costretto, dice Reus, attraverso la mia natura razionale ad ammettere Dio e l'immortalità dell'anima. È la mia ragione dunque che mi impone di credere all'esistenza di Dio, e all'immortalità dell'anima. E questa fede, dice appunto Reus, non è una cieca fede pia, ma una fede offerta dalla ragione. Ebbene, esposto Kant in questo modo, e i punti fondamentali, Reus dice: se c'è qualcuno che da questi principi teme ancora qualcosa di male per la religione e la moralità, costui o non ha riflettuto per niente sulla filosofia di Kant, o non lo ha fatto solo superficialmente. canteri del fanatismo, cui conducono, cito sempre, la sensibilità osservata, il sentimento privo di ragione e la cieca fede. E domina anche il gelido, il lambiccato inattivo egoismo, cui portano una ragione isolata, la fredda speculazione e una sregolata voglia di sapere. Stando così le cose, si avrebbe un grosso fraintendimento della filosofia di Kant se si credesse sul serio che essa distrugge ogni cosa, che essa spazi via del tutto quanto hanno costruito i nostri grandi pensatori in teologia razionale. La verità di Sorois è proprio l'opposto. È vero, Kant contesta alla teologia razionale che si possa dimostrare l'esistenza di Dio, ma al medesimo tempo, aggiunge Royce, mostra ad essa una via più sicura e spedita per arrivare sia all'esistenza di Dio che all'immortalità dell'anima. Fa vedere come questi due articoli di fede sono inesorabilmente legati l'uno all'altro e salva, dice Royce, le verità fondamentali della religione dagli attacchi che oggi le vengono sferrati contro e al contempo le stabilisce per tutte le epoche future. Cito, lascio alcune altre citazioni e vengo adesso all'altra domanda che si pone appunto che si pone Royce. In verità, per quanto temibile e distruttiva possa all'inizio apparire la filosofia di Kant, essa ha portato la ragione in accordo con se stessa, dice Royce. La filosofia di Kant proibisce l'abuso della ragione, essa non fa saltare in aria i beni della ragione, ma indica ad essa i sentieri più sicuri, ed è così che essa può udire, cito, il lamento e il grido di disperazione della morente scuola leibniziana e di quella di Wolff e di tutte le altre scuole dogmatiche. Questo dice Royce, per il professor Marco Lungo. I filosofi dogmatici preferiscono vivere o morire, dice Royce, nei loro edifici intellettuali ormai fatiscenti, piuttosto che andare ad abitare in case più spaziose e maggiormente solide. E questo è anche il caso di Stadler, il quale, Benedict Stadler con suo anticante, il quale, afferma Royce, ha combattuto dunque solo con le ombre. Stadler non ha capito Kant, non poteva capirlo. Stadler non si è nemmeno, potremmo dire, se Stadler è meglio, non si è nemmeno degnato di leggere la Critica della Ragion Pratica, ma senza questa le altre opere di Kant, dice appunto Royce, sono solo frammenti. E dunque come poteva Stadler comprenderlo? E c'è un'ulteriore domanda che Royce si pone. I più grandi filosofi della Germania stanno dunque discutendo sulla filosofia di Kant. Cito, la controversia è aspra, di grande importanza, è proprio della nostra cara Germania. Ebbene, gli si chiede, le scuole cattoliche tedesche non devono partecipare a tale controversia? Non devono avere nessuna parte del fatto che la filosofia di Kant cadrà o in avvenire resisterà? È questa la domanda che, preoccupato per le vicende risorte della cultura cattolica, si poneva a Martin Royce, il quale così proseguiva, se noi ci comportiamo solo come pigri spettatori e con le mani in mano aspettiamo di vedere come le cose andranno a finire, quale diritto potremo avanzare sul godimento dei frutti della parte realizzata soltanto dai nostri colleghi protestanti? E poi andiamo ancora avanti, sono con questo tono. Bene, dunque. Va insegnata la filosofia di Kant alle università tedesche, cattoliche tedesche? Tale fu la questione a cui cercò di rispondere Martin Royce. E Borowski, a questo proposito, poco tempo dopo l'uscita del lavoro di Royce nel suo bozzo della filosofia di Kant, annota, ancora più notevole è il fatto che la questione sollevata dal professor Royce non ha più bisogno di essere risolta, perché a Magonza insegnano Dorsch e Blau. A Duisburg è menzionato Royce e probabilmente la si insegna la ragione di Kant in varie accademie cattoliche. Certo però lo splendore della luce kantiana non entrerà tanto presto, dice appunto Borowski, dagli oscuri portoni di certe scuole claustrali. Per qualche tempo ci si vendicherà delle teste fini desiderose di studiare la filosofia critica accusandola di eresia. A lungo si continuerà a deridere non avendo un modo di confutare, a dispetto di qualche cenobita devoto al nostro filosofo, e per farlo montare sulle poco filosofiche furie si darà al cane la guardia del convento in nome di Kant, un fatto avvenuto, sembrava proprio un convento al cane di guardia, messo in nome appunto Kant. Così si continuerà, dice Borowski, forse per qualche tempo, ma ciò non susciterà anche depurazioni e non intaccherà minimamente il rispetto che tante teste più intelligenti provano per Kant nei paesi cattolici. Dunque, Royce pubblica il suo libro, appunto, nel 1989. e il suo preciso intento fu quello di proporre una apologetica del cattolicesimo su base kantiana. Anch'io condivido quello che diceva questa mattina il professor Nischke. C'è questo accordo tra fede cattolica e filosofia di Kant. A quei tempi, adesso lo vedremo andando avanti, fu una cosa scontata, normale, perché non c'erano questi pregiudizi che sono venuti dopo. Dopo, appunto, con tutta la battaglia che è stata fatta contro Kant, appunto, a partire dal 1830 in poi, e poi col modernismo, eccetera. Cioè, questi pregiudizi non c'erano, perché questo accordo sembrò normale, naturale, vi dicevo. E questo fu uno di Kant. Però, vado bene, ad essere sinceri, l'anno avanti, nel 88, era uscito a Monaco in due tomi, con un testo di uno per un appendice, ma sono tomi grandi così, appunto, l'anti-Kant di Benedetto Stadler. Stadler è un distruttore, appunto, bavarese, per il quale, cito, Kant è un distruttore della ragione, un pasticcione ciarlatano, un pensatore antireligioso e antiliziano, un pericolo da cui bisogna guardarsi perché è niente la religione e morale. Kant fa del male all'umanità, per Kant, scrive Stadler, la ragione è un'inutile serva dominata dalle esperienze sensoriali, incapace di proponire la conoscenza della cosa in sé, dell'animo umano di Dio. I principi avanzati da Kant contraddicono ogni sana ragione, le sue affermazioni sono insensate ed arbitrarie. L'anno appresso a Vienna esce un libro di Peter Mietti, un altro antikantiano, appunto, intitolato Über Faschheit und Kultursicherheit des Kantischen Systems. Il sistema di Kant, dice Mietti, cito, è un astuto tessuto di falsi principi finalizzati alla rovina delle scienze, dei costumi, della religione e dei trovani. Kant ha raffazzonato tutta l'immondizia, un rat, delle più antiche sette di filosofi pagani. Egli costruisce il suo sapere su presupposti artificiosi, su ipotesi infondate, scorrette e false, e il suo umile non sapere su stravolgimenti di termini e dimostrazioni su fini scelti e ritagliati ad arte per il suo sistema. Al pari dei liberi pensatori, Kant si rendeva conto, dice Mietti, che l'assalto contro la religione cristiana sarebbe stato vano se rimanevano saldi i diritti della ragione, e per fatto proprio le più esecrabili e assurde ipotesi. Kant, in fondo, dice appunto, Mietti è un giacobino, per la ragione che si diceva stamattina. Uno potrebbe pensare che questi episodi sono un po' isolati. No, perché se andiamo un pochettino a scavare, io quando ho trovato questa faccenda di Royce, e poi ho un po' in Germania, ho visto compagnia, altre cose a Roma, eccetera, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che, se uno gratta un pochettino in queste librerie tedesche, si accorge che qui, voi che siete kantiani esperti di queste cose, uno gratta un po' e si accorge che premostratensi, cappuccini, gesuiti, benedettini, erano tutti kantiani. In queste università cattoliche tedesche si insegnava solo Kant, per un certo periodo, per circa 20 anni. E la cosa è sconvolgente, perché, pensate, nel 93, nel 1700, il matematico e fisico Joseph Weber, anche di Pedro Cattolico, pubblica il suo Versuch di Arten Urteile über die Kantische Philosophie zu gliedern. In esso, questo Weber, questo fisico e filosofo, Pete, dichiara contro il timore di chi la pensava come statua che, a suo parere, cito, la filosofia kantiana non solo non insegna nulla di dannoso, ma che essa piuttosto è alla base delle verità fondamentali della religione, della moralità, e assicura inoltre l'una e l'altra contro gli attacchi ostili dei loro nemici, in modo che nessuna, cito sempre, in modo che nessuna nella filosofia sarà fin prima in grado di fare. Nel 95 appare la Kurze und deutliche Darstellung des Kantischen Systems, un'opera che il cattolico Andreas Metz scrisse per tutte quelle persone che, fortemente interessate alla filosofia, ma alla rivoluzione kantiana, nell'ambito della filosofia, non avevano però l'opportunità di farsi un quadro sistematico e completo della nuova filosofia. Scrive Metz. Se secondo Kant la ragione teoretica non può riguardo l'esistenza di Dio e l'anima immortale decide nulla che sia pro o contro questa verità, tuttavia la ragione pratica ripara il danno di ciò che sembra derivi per moralità e la religione e lo ripara doppiamente. E lo ripara appunto doppiamente. La moralità, dice sempre appunto Metz, che prima doveva essere solo una serva di aspirazioni o tendenze alla ricerca di vantaggi, ora diventa il fine principale dell'uomo e insieme l'autentica dignità della nostra specie. E la morale di Kant ci conduce, dice appunto Metz, ci conduce aspettate qua, posso il filo qua, ecco, immediatamente alla fede e agli articoli fondamentali della nostra religione, a Dio e all'anima immortale. Cattolico convinto e prete, fu anche gesuita bavarese, in questo caso Sebastian Michele, citato a Pino De Rey questa mattina. Innanzitutto, secondo Kant, Michele, che è stato un grande padre della Chiesa bavarese, appunto, io sono questi libri che so, poi anche su lui hanno fatto un convegno alcuni anni fa, appunto, in Germania. Michele, in un libro intitolato Moral Theologie, Ode Theologische Morale, 1801, sostiene che la legge suprema della morale non può venire ricavata dall'esperienza, già che l'esperienza mi informa soltanto, dice Michele, su ciò che è, dice Hume, per esempio su ciò che io di fatto voglio e desidero, ma non su ciò che deve essere o su ciò che io devo volere. Una delle formulazioni dell'imperativo categorico offerta da Michele suona: io devo sempre assumere come regola del mio volere e del mio agire solo quello per cui posso volere che sia una legge universale. Ma questo principio fondamentale e morale è, egli commenta, lo stesso principio morale predicato da Gesù e dagli apostoli e che da ragione mi fa riconoscere come buono, giusto, santo e perfetto. Bene, contro i libri di Weber, Versuch, eccetera, eccetera, l'anno dopo, nel 1994, Stadler scrive un altro libro. La polemica è stata molto effervescente, quella è anche molto dura. Un saggio di loro, appunto, Mein noch immer feste Überzeugung von dem vollen Ungrund der Kantischen Philosophie. Tale lavoro è una puntuale e puntigliosa replica, frase per frase, concetto per concetto, delle tesi sostenute da Weber, con il dichiarato scopo di dimostrare l'insanabile contrasto tra cattolicesimo e filosofia kantiana. Stadler pubblica questo suo saggio nel 1994, ma presso Michele gli risponde con un altro libro intitolato Critische Beiträge zur Metaphysik in einer Prüfung der Statischen Antikantischen. Michele non pone affatto in dubbio il merito di Stadler in quanto sacerdote, parroco e professore, solo che Stadler, dice Michele, non è proprio un grande filosofo. Di fronte ad affermazioni come le seguenti: la pensabilità è il fondamento della cosa, la cosa è il fondamento della pensabilità, la cosa è il fondamento della cosa, espressione che si trova appunto in Stadler, Michele asserisce che si tratta di roba ridicola e confusa, di inutili tautologie, un blocco bar tautologie. Mi convincono, ad avviso di Michele, l'argomentazione adotta da Kant a dimostrazione della tesi di Dio, da Stadler. L'argomento proposto da Stadler è quello ontologico e Michele ha buon gioco nell'affrontare Stadler con gli attrezzi appunto costruiti da Kant. Bene, io parlerò brevemente, molto rozzamente, avete visto, appunto di Reuss, di Weber, di Michele e di Metz. E adesso in mezza pagina, ecco, faccio vedere come questo kantismo tra cattolici non è un fatto isolato, ma era un fatto, per quanto posso dire, per quanto ho potuto vedere in sostanza, era un fatto molto più grosso nella Germania, ripeto, tra 1780 e 1810 circa. Il 21 aprile del 97 Reuss scrive a Kant. E in questa lettera, tra l'altro, leggiamo: non mi sarà indifferente venire a sapere che i suoi principi prendono sempre più saldamente piede sul suolo della Germania cattolica. Questo scrive Reuss a Kant. In realtà, fin dalla loro prima apparizione, furono gli scritti di Kant a non lasciare indifferenti né protestanti né cattolici. E non pochi furono appunto i cattolici che subito videro nella filosofia kantiana una filosofia che non solo concordava con il cattolicesimo, ma che addirittura si configurava come una solida apologetica di cattolicesimo medesimo. Nelle pagine precedenti ho nominato Reuss, Weber, Metz e Michele. Ma la realtà dei cattolici kantiani tedeschi, la lista appunto, va ben oltre costoro. Eccolo solo alcuni altri. Padre Konrad Stange, anche lui benedettino allievo di Reuss. Padre Anselm Erlanger, dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. Padre Ildefons Schwarz, anche lui benedettino, il quale introdusse, seppur con molta cautela, la filosofia di Kant nel convento di Banz. Padre Richard Paolo de Lau, cappuccino di Kissingen, che come ricorda Joachim Heinrich Eck, al di sopra dei pregiudizi dominanti, fu il primo a far conoscere anche ai suoi confratelli della neonata filosofia kantiana. Georg Eduard Daum, rettore del seminario di Bamberga. Questo nominato professore di filosofia del 77 fu uno dei primi cattolici. Scrive, in questo caso, in Motz. Questo Motz ha fatto la tesi di laurea nel 32 a Freiburg, di Freiburg, e fece la tesi con Honecker, il relatore è stato appunto Heidegger, il relatore era Heidegger, e io ho avuto questa dissertazione appunto presa a Friburgo, ed è molto interessante perché Mocce ricostruisce l'ambiente cattolico attorno a Royce e dopo Royce. Bene, dicevo, poi ci sono ancora altri, per esempio il padre lazzarista Jacob Kohler, all'Università di Heidelberg, e il padre benedettino Placido Slicker, all'Università di Fulda. Una situazione non diversa fu qui al Club Arno in Austria il professor Nepomuk Fundelling a Vienna, il professor Albertini per il secolare a Innsbruck, e c'era poi l'altro Poitinger, come diceva lei stamattina, che io non ho notato qua. Poi ci sono ancora altri, appunto, come Augustin, Isenbill, Sartori e Barsberg, Snell, Cajetan von Weyler, Sarat. E altri ancora diffuso il pensiero di Kant in Svizzera, come il caso del professore Samuel Hitt a Berna. Questo vale bene, è una prima assegna, ma io credo che scavando si troverà molto di più e speriamo di poterlo fare appunto in seguito. Bene, io ho delineato per summa capite in modo un po' rozzo, dicevo, questa situazione del rapporto tra Kant, abbiamo delineato appunto tra Kant e i cattolici tedeschi. Dunque, cattolici schierati contro Kant e cattolici per Kant. In Germania, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. E questo sta a dirci che la filosofia di Kant, proprio fin dal suo primo apparire, non lasciò affatto tranquillo il mondo cattolico. E mentre verso la fine dell'Ottocento si assisterà alla messa al bando di una lotta spesso cieca e crudele del filocantismo dei cattolici francesi per il problema del modernismo, in Germania tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento i cattolici kantiani, per ragioni diverse, stamattina il professor Rischi ne indicava alcune, il problema della rivoluzione francese per esempio, dovessero subire tutta una serie di attacchi tali che il filocantismo dei cattolici tedeschi è ormai un episodio del tutto dimenticato anche nelle più accreditate dettagliate storie della filosofia. Eppure, appunto, vi dicevo, è stato un momento molto grande. Il professor Micheli, appunto, che vedo qua con molto piacere, quando lavoravamo con Badito queste cose, io andai in Inghilterra e trovai Micheli ad Oxford, parlammo di queste cose e Micheli mi dette una rivista inglese del 1802, vado bene, un giornale del 1802, dove su questo giornale inglese, vado bene, pubblicato a Londra, 1802, si parlava di questa diffusione del cantismo tra i cattolici tedeschi. Quindi questo fatto non solo era noto in Germania, ma addirittura appunto anche in Inghilterra arriva. Bene, vi dicevo, il nostro secolo, ecco, a dire il vero, non ci fu da parte cattolica solo rifiuto di Kant. Questa mattina stava facendo il Marechal, e anche appunto Sivara, padre Sivara. Per Sivara, cito solo due frasi, Kant stupra se stesso. Ogni esame più approfondito del suo condizionamento storico, della struttura del suo pensiero, conduce a sviluppi nuovi dell'antica linea costignata, mistico-scotistica. Questo fatto è anche, dice Sivara, la ragione per cui nell'anno del Giubileo Kantiano 24 il giudizio cattolico su Kant ha assunto forme più serene, dice Sivara. Dal canto suo, padre Lotz mostra che Tommaso, cito, è tutt'altro che allievo da prospettare un apriorismo formale costituito appunto dalle strutture del soggetto umano e delle sue facoltà conoscitive connesse con quelle appetitive, ciascuna delle quali è il suo oggetto formale, il suo grado gerarchico di recettività e spontaneità, e in connessione con la struttura del mondo reale che le impressioni stimola e loro progressivamente si risvela. Su queste linee celozze tommasiane può dunque una rinnovata scolastica assumere il metodo trascendentale, svolgendolo oltre Kant, il quale vi si è chiuso in maniera esclusivista e non lo ha inteso in malangusto, restringendo il sapere di qua dall'essere nell'ambito dell'oggettivazione fenomenica, nella sfera cioè delle categorie e non dei veri e propri trascendentali in senso antico, cadendo così di celozze nel realismo e nell'agnosticismo. E inoltre il Lotz mostra che il Kant è tutt'altro che assente, che in Kant è assente un'apertura verso l'ontologia e la metafisica. In ogni caso, vale bene, nonostante queste aperture e queste forme di giudizio più serene, come dice appunto Sivara, se guardiamo le cose con onestà, dobbiamo dire con molta chiarezza, come diceva Eucken, che tra questi due mondi, cioè tra Kant e Tommaso, la Chiesa Cattolica sostanzialmente ha scelto Tommaso e la scolastica contro Kant. Io termino adesso questa prima parte, e la seconda parte la faccio in pochi minuti, questa prima parte, perché credo che in qualche modo è un piccolo, mi rendo conto, un piccolo contributo a questo convegno, cioè dove si esamina appunto, ecco, diciamo così, questo rapporto, come ripeto, molto spontaneo, dove non c'erano atti pregiudizi, condanne, eccetera, ecco, tra Kant, tra kantismo appunto e fede cattolica. Bene, le precedenti considerazioni, qui appunto vengono le domande su cui Baldini è molto d'accordo con me, vogliono soltanto essere semplici annotazioni, dicevo, per un resoconto riguardante un molto significativo momento della storia del rapporto tra ragione e fede. Il kantismo dei cattolici tedeschi è stato un evento che, per ragioni storiche individuabili, non conobbe gli sviluppi che forse meritava, e furono sostanzialmente ragioni politiche a bloccare tentativi differenti, talvolta anche troppo sbilanciati a favore del grande patriarca, talvolta pure semplicistici, perché non so, in un convento benedettino si disse che in punto San Benedetto ha fatto prima di Kant quello che ha fatto Kant, cioè che la regola, che il livello categorico era appunto la regola benedettina, erano cose un po' semplicistiche, diciamo così. Però si costruì in questo modo appunto questa politica cattolica a partire dalla persona di Kant. Furono dunque, dicevo, ragioni del genere e non certamente infuocanti libri di Stadler o di Miotti a non far crescere nel mondo cattolico tedesco quel movimento di idee che aveva visti come iniziatori sacerdoti quali Mater Reuss, Josef Weber, Sebastian Muschelle o Andreas Metz. Ma da questo evento, spezzato quasi sul nascere, emergono ancora, secondo me, con prepotenza problemi ineliminabili. Il rapporto tra ragione e fede è, io chiedo a voi, amici, appunto, gli amici che sono, io con cui siamo veramente amici, ecco, Marco Lungo, Pellegrino, Galvani, che è logico e metafisico, Michele, un pochino più kantiano, diciamo così, io chiedo veramente a Fabio, cioè io chiedo veramente, se è, no, senza alcuna polemica, io vi chiedo, ma veramente oggi è una poesia cattolica, è meglio costruibile su basi kantiane, ovvero dicendo che Tommaso è l'unica vera e eterna filosofia? Possiamo chiederci, ieri, ecco, furono più razionali i cattolici tedeschi kantiani o i cattolici che, come Stadler, rimasero ancorati appunto alla vecchia metafisica? E oggi non è razionale riprendere il progetto dei cattolici kantiani e riproporlo contro le arroganti pretese anche di molti metafisici cattolici, per i quali varrebbero, cito frasi precise, per i quali la fede sarebbe solo una favola illusoria, ripeto, per i quali la fede sarebbe solo una favola illusoria senza le loro dimostrazioni metafisiche. Non è insomma più razionale aprire la fede e ricostruire lo spazio della fede confessando apertamente che la ragione non può né dimostrare né negare l'essenza di Dio e che sempre la ragione non può né dimostrare né infirmare appunto la credenza in un'anima immortale? Non fosse più ragionevole, a parte omnis, pensare a Dio e postulare un'esistenza, e come si diceva prima appunto, perché la fede dei singoli, la storia degli uomini, lo stesso universo fisico, la sofferenza innocente, l'assurdo dolore, abbiano senso. Cioè, chi si vuole invece di postulare Dio perché la vita, la storia, l'universo non precipitano nella voragine dell'assurdo? Noi postuliamo Dio, l'essenza di Dio, postuliamo perché indubitabile, inestirpabile, mai soffocabile la richiesta di un senso assoluto, teoreticamente non conoscibile, umanamente non costruibile. In due parole, l'essenza di Dio è un teorema, una facile presa della ragione, o essa è piuttosto oggetto di speranza di chi, dovendo per forza scommettere, opta contro l'assurdo e crede che i fatti del mondo non siano poi tutto. Sbaglierà più tardi Wittgenstein a dire che il senso della vita possiamo chiamarlo Dio, oppure avevano ragione quei parroci tedeschi, vale bene, che nel 1799, l'anno in cui pubblicò, alcuni anni dopo che pubblicò il libro di Reuss, si aspettavano e auspicavano, barbe di questi parroci, misure da parte dell'autorità, misure tali da sterminare quel pericolo pubblico costituito dalla filosofia kantiana. In realtà in quell'anno, nel 1999, sono le epistole Nonnullorum Germaniae Parocorum ad Germanos Kantiane Philosophiae Propagandoris et Seclas, seu quam sit urgens Kantiana Philosophiam procula Germani Filibus Exterminandi Necessitas. Per questi parroci, in sostanza, la medicina che Kant propone contro il materialismo, l'ateismo, l'idealismo, il scetticismo è peggiore della stessa malattia. Nullum sane ostem alium preter Kanti sistema, anche tempestati in Germania novibus, qui in religione, anche societati, e tan proxima protendat pericola. Kant in sostanza è pericoloso, Kant è un giacobino. Certo, i kantiani, dice Albino appunto questi parroci, non si rebellano atei. Per loro tuttavia l'esistenza di Dio, l'origine del mondo, la libertà, l'immortalità dell'anima, ecco, sono e restano oggetti ignoti. E se poi, dicono questi parroci tedeschi, se poi dalla teoretica si passa alla morale, allora ci si accorge che le cose vanno ancora peggio. Guarda, questa frase è bellissima dal punto di vista stilistico. A te vero kantiana principia in non bisogna, quei comunque ti digerante polluentibus arpugni sibilia, non solo l'existenzia in dei, sed essiam purissimos morum disciplina fontis et semplicitate animarum sordibus suis deturparunt. Cioè è veramente tutta una sporcizia questa teoria morale di Kant. E dunque, ancora un minuto. Quanta razionalità, ci chiamo di mirare io troppi, ci fu in questo rifiuto sordo e minaccioso di alcuni impauriti parroci tedeschi? E infine, il patrimonio di idee lasciatici dai cattolici kantiani tedeschi è un'eredità di cui vergognarsi o un vero tesoro da riscoprire? È questa, secondo Maldini e me, una grave questione che non possiamo lasciare cadere. Sappiamo dunque che la Chiesa Cattolica tra la scolastica e la filosofia di Kant scelse la scolastica. Ebbene, la domanda inevitabile è la seguente: tale scelta, e la ripeto, si è rivelata una buona scelta? È stata feconda? E di che cosa? Ma soprattutto, oggi, sono domande che faccio con molta sincerità, cioè, oggi che valore ha una siffatta scelta? Riesce a convincere qualcuno? È ancora difendibile? Con quali attrezzi logici ed epistemologici? E qui, ecco, va bene, vorrei che questa domanda fosse percepita con la migliore empatia in qualche modo, perché è davvero una storia di assurdità e di miserie essere stati, o magari ancora essere, cattolici e agostinisti, cattolici e scotisti, cattolici e rosmanisti, cattolici kantiani, cattolici sostenitori di una ragione debole e di una razionalità fallibilista. Cioè, chiedo io, chiediamo, la tradizione del pensiero cristiano è unicamente una storia di annaspamento in oscurità, dove rifugge solo la vera ed eterna luce della scolastica e del tomismo? Ripeto la domanda. Cioè, è davvero una storia di assurdità e di miserie essere stati o essere ancora cattolici e agostinisti, cattolici e scotisti, cattolici erosministi, cattolici kantiani, cattolici sostenitori di una ragione debole, di una razionalità fallibilista? La tradizione del pensiero cristiano è unicamente una storia di annaspamenti nell'oscurità dove rifugge solo la verità assoluta di una filosofia? Insomma, rovesciando la domanda, è possibile essere filosofi cattolici soltanto abbracciando la filosofia scolastica? Solo in questo modo? Altrimenti non sei né filosofo né cattolico. Perché se quella è la filosofia, tu non sei filosofo, sei sciocco, almeno sei cattolico. Ripeto, è possibile essere filosofi cattolici solo abbracciando la filosofia scolastica, in particolar modo quella domestica? Ma questo, vi chiedo, questo non ha significato, ecco Ferdinando, non ha significato e non significa legare il messaggio rivelato ad una particolare, sempre umana, storica e quindi un'assoluta concezione filosofica così strettamente che poi i sospetti e le prove di invalidità di tale concezione filosofica si riverseranno sul messaggio rivelato. Cioè, siamo veramente legittimati noi altri a legare, perché credo vada bene, perché non credo, però non si può nemmeno, a legare, diciamo, la filosofia, la fede cristiana, la fede cattolica, la fede cristiana, a qualcosa di fatto da noi, in modo così indissolubile, per cui ritorno i sospetti su questa nostra aggeggio, che è una metafisica qualsiasi, dovranno riversarsi poi sulla fede. Cioè, noi che abbiamo sofferto, la crisi, il dramma che viviamo, è quello appunto più tardi di Darwin. Non si può legare la fede cristiana ad una teoria scientifica, come fu il caso del dramma di Galileo, Tolomeo. E io vi chiedo, e allora si può forse legare la fede cristiana ad una filosofia, neanch'esso un attrezzo umano, fatto da noi, non ci vedremo un'idea, una metafisica qualsiasi, facciamo noi altri, aggeggi che possono domani crollare, perché no? Perché no? Sono cose nostre, non eterne, non assolute, sono terrestri, no? Sono aggeggi che facciamo noi altri. Bene, vi chiedo appunto, siamo veramente legittimati a sostenere appunto che c'è questo nesso indissolubile? Finisco, sì. Bene, se si pretende che senza il fondamento di una qualche filosofia, sia quella aristotelica o quella tomistica o qualsiasi altro tentativo contemporaneo di metafisica trascendentista cognitiva, la fede cristiana sarebbe non più che una favola, allora la caduta di quella filosofia dovrebbe avere come migliore conseguenza quella per cui la fede è una pura favola. Allora, una domanda e una conclusione a Dubrovsky. La domanda è questa, io chiedo, ma fondamento della fede cristiana, c'è Aristotele o Gesù Cristo? Questa è la domanda. La conclusione, per tutto quello che ho detto, in modo un po' arruffato, un po' passionale, ma poi Baldini è uno scrittore molto abile, le cose vengono scritte meglio nella relazione. Che abbiamo detto appunto, vediamo che la lettura di padre Martin Royce non si riduce a un puro esercizio di scavo archeologico o ad un'informazione in più nella storiografia dedita alla fortuna della filosofia di Kant. Ed è per questo, inoltre, che comprendiamo come Ludwig Ernest Borowski, nella sua descrizione della vita decorata di Immanuel Kant, avesse potuto scrivere che, alle lezioni di Kant, i giovani teologi imparano da lui a scansare il falso, frivolo, brillantatore e sterile illuminismo, che tra loro chiama la tendenza ad allontanarsi dalla Bibbia e dal sistema che vi è fondato, e non solo a ripetere da pappagallo il sistema, ma a riflettere su tutto, e pertanto anche sulle verità teologiche. I teologi, secondo il professor Borowski, dalle sue, di Kant, dalle sue lezioni, traggono la convinzione che la sua morale non è un punto in contraddizione con la dottrina morale cristiana, anche se tra le due non ci dovesse essere quella puntuale armonia che tra loro pretendono di trovare affermando che Cristo e gli apostoli dicono soltanto la stessa cosa che dice Kant. Risultati, sì. Non si può negare, dice Borowski, la dottrina kantiana della virtù coincide perfettamente con la dottrina cristiana. I motivi di quest'ultima provengono da un'altra origine e vi raggiungono la popolarità e la comprensibilità per tutti. Come sanno gli amici, come sa Baldini, lo quale ormai dopo, siamo più di vent'anni che ci conosciamo, io sono il più vecchio popperiano d'Italia. E dunque, il più vecchio popperiano, sì, perché... Popperiano, sì, il più vecchio d'Italia, sì. Allora, essendo il più vecchio popperiano d'Italia, sono anche il più vecchio teorico in questo nostro paese, a differenza in ogni caso del fallibilismo e della fallibilità. E a questo punto, sia Baldini sia io, essendo vecchi popperiani, ci sottoponiamo alle vostre falsificazioni. Grazie.